Milva è stata un'artista che ha attraversato diverse arti perché è stata una star della musica e di diverse musiche, la musica pop come la musica d'autore con Iannacci, Battiato, ma anche la musica cosiddetta colta o classica, da cui le collaborazioni con Berio, ad esempio, ma non è stata solo una cantante, perché è stata una grandissima anche interprete di teatro, una delle muse, vorrei dire, di Strehler, e anche lì non solo con Strehler, ma proprio facendo la mostra abbiamo scoperto e mettiamo in luce anche sue partecipazioni al cinema, molte presenze televisive. Per cui è stata davvero un'artista che da protagonista è stata sulla scena per decenni. E a lei invece chiedo come è strutturata la mostra, in quante sezioni è divisa e che cosa potranno vedere gli spettatori nelle varie sezioni. La mostra racconta l'archivio che Martina Corgnati, che è la figlia di Milva, ha donato all'Università di Bologna. A partire da questo archivio, io e Anna Maria abbiamo elaborato un percorso che in primo luogo vede la sua biografia, cioè il suo percorso che partiva da Goro, quindi dall'Emilia Romagna per arrivare a Milano e tutto il suo percorso, diciamo, biografico. Dopodiché la seconda parte, musica, teatro, arti, la seconda sala, e la terza sala racconta invece il suo percorso internazionale, perché una cosa fondamentale di Milva è stata che è stata un'artista riconosciuta all'estero in modo che raramente è accaduto a cantanti, diciamo, della musica leggera italiana. Quando sono arrivato, ho fatto un giro brevemente della mostra e ho visto che nell'ultima sala è presente un abito. L'abito è l'abito che lei ha indossato nell'opera da Tre Soldi, quindi è uno dei, diciamo, dei pezzi più importanti della nostra mostra, che ci è stato prestato dal Piccolo Teatro e che appunto racconta esattamente, diciamo, la scena, ecco. E ultima domanda, volevo chiedere come è nata l'idea per questa mostra, cosa vi ha portato a realizzare una mostra dedicata a Milva e come avete trovato tutti i vari materiali da esporre. Dunque, la mostra, come diceva il mio collega, nasce per raccontare una donazione, cioè l'archivio che la figlia di Milva, Martina Corgnati, ha deciso di donare all'Università di Bologna. E essendoci stata questa donazione, ci sembrava giusto, a noi come università, intendo, fare un'iniziativa di valorizzazione e anche di comunicazione di questo archivio, perché poi molto spesso, si hanno delle cose in casa e le persone, la cittadinanza innanzitutto, non sanno che esista. Quindi, diciamo, nasce come, impegno e progetto a partire da quell'archivio. Dopodiché c'è un comitato direttivo all'interno di cui siamo parte. All'interno di quel comitato direttivo io e Lucio Spaziante ci siamo assunti l'incarico di realizzarla e abbiamo naturalmente iniziato a ragionare su come mostrare dei materiali che per l'appunto sono materiali d'archivio, come tali non sempre, non immediatamente facili da esporre. Dunque abbiamo deciso da una parte di raccontare la personalità di Milva, cercando di farne emergere davvero le tante sfaccettature, per cui Milva è una, in arte Milva significa che è una sola, perché in questo senso, anche se ha attraversato tanti ambienti, tanti momenti, è rimasta sempre riconoscibilissima. Però è anche mille persone diverse che sono quelle che abbiamo cercato di raccontare. Perfetto, allora io vi ringrazio e ricordo che la mostra sarà al Museo Internazionale Biblioteca della Musica di Bologna dal 23 novembre 2023 al 4 febbraio 2024 e grazie mille, venite a vederla perché è molto bella.